amor mío. Se tu sapessi quanto t'ho cercato, ora sei qui con me, ringrazio il Dio. L'amore che cercavo l'ho trovato, io ti sognavo sempre vicino a me. Il sogno si è avverato, ora tu sei qui con me. Amore mio, non mi lasciare mai, io solo morrei se resto senza di te. Amore immenso, tu non puoi immaginar quanto ti penso. Ora il mio desiderio si è avverato, come toccare il cielo con un dito. Senza di te, amore, amore, amore, amore mio, se tu sapessi quanto t'ho cercato, ora sei qui con me.